Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Come vengono definiti i prezzi dei prodotti? Quanto contano il valore reale e i trucchi per conquistare il consumatore? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Sono le domande alle quali cercheremo di dare risposta nel primo degli approfondimenti di questa puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo poi di prodotti e informazione e, per il focus sui trend, di consumi al limite, quando a fare tendenza sono scomodità, vertigini, adrenalina e provocazione. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana. Anche i comuni scendono in campo contro le pubblicità lesive della dignità della donna. Il Consiglio Comunale di Trento ha approvato una mozione che blocca l'uso di immagini volgari o degradanti nelle affissioni pubblicitarie lungo le strade. Sono dell'azienda olandese Oat le prime sneakers interamente biodegradabili. Prodotte in canapa, sughero, cotone e plastica bio, una volta consumate vanno piantate nel terreno. Ne nascerà una pianta, i cui semi sono contenuti nella linguetta della scarpa. Cala la spesa alimentare, ma cresce la spesa low cost. Secondo Federalimentare, l'incidenza dei discount nell'universo dei canali distributivi ha ormai raggiunto l'8%. Internet, intanto, si conferma come la nuova frontiera dello shopping low cost, che posiziona l'Italia al terzo posto tra i paesi europei più economici per gli acquisti online, dopo Inghilterra e Germania. Semaforo verde dall'osservatorio del sito di comparazione prezzi Kelku per CD, libri e prodotti alimentari. Rosso invece per giocattoli e telefoni cellulari. Si terrà dal 29 aprile al 1 maggio la seconda edizione del Capri Trend Watching Festival. Obiettivo della 3 giorni di incontri, la mappatura dei fenomeni che stanno riconfigurando il rapporto tra consumo e produzione. Dal crowd buying, gli acquisti collettivi, alla nuova dialettica tra lusso e low cost. Tra gli ospiti, Marco Gé, Gillo Dorfles, Ross Lovegrove, Philippe Daverio. La borsa della spesa. Signore e signori, benvenuti a OK! Il prezzo è giusto! Inevitabile la citazione della trasmissione cult anni 80 quando si parla di prezzi, anzi di pricing, la tecnica di determinazione dei prezzi dei prodotti. Quanto vale un prodotto? Cosa determina il suo prezzo? Tra costo oggettivo e valore percepito, tra economia e neuroscienza, i prezzi nascondono molti segreti in cui entrano in gioco fattori diversi. Partiamo da una cifra su tutte, l'ultima. 0,90,99. L'ultima cifra si memorizza e definisce la percezione del prezzo. Il 60% dei prezzi termina con il 9. È la tecnica del price ending, trucco vecchio quanto il commercio. Leggenda vuole che fu il fondatore del Chicago Daily News a inventarlo, a fine 800. Convinse i negozianti della città a ridurre i prezzi di qualche centesimo, così da fornire ai clienti gli spiccioli per acquistare il quotidiano. Oggi il prezzo non ha più nulla a che fare con la stima del valore di una merce, ci dice Giovanni Siri, docente di psicologia dei consumi all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Mentre prima si temeva che il prezzo fosse una stima del valore, della materia prima, della quantità di ingegno umano che possiamo applicare, del lavoro che c'era, eccetera, quello che stiamo scoprendo sempre di più, il prezzo è percepito al consumatore come un modo di esprimere il suo rapporto con la cosa che compra o col brand che lui compra. Se accettiamo questo, che poi è supportato da tanta letteratura anche di neuromarketing, allora capiamo perché funzionano dei meccanismi psicologici che sembrerebbero strani se per prezzo intendo il valore oggettivo, il valore d'uso, il valore di scambio della cosa. Per esempio, le persone ritengono che le cose più necessarie devono costare di meno, mentre sono disposte a pagare di più per cose non necessarie. Cioè, se compro il pane penso che il pane deve costare poco, mentre invece compro uno stupidissimo maglioncino, sono disposto a pagarlo moltissimo perché so che quella cosa, uno, non mi è necessaria e secondo, qui introduciamo un'altra dimensione, non serve più alla mia sopravvivenza o alla mia comodità, ma serve a esprimere la mia personalità, a supportare la mia identità, mettiamola come vogliamo. Le politiche dei prezzi delle aziende sugli stessi prodotti cambiano anche a seconda del paese a cui si rivolgono. Il consumo ormai fa parte della cultura materiale, no, di una società, cioè della cultura che poi guida la nostra vita pratica, quotidiana. Le culture anglosassoni, quella tedesca, quella inglese e quelle comunque del nord Europa, tendono ad avere un atteggiamento molto più legato al fatto che pagare il giusto prezzo è un segno di intelligenza e è una competenza che io come cittadino, come persona devo avere. Nella nostra cultura mediterranea, in particolare quella italiana, cerchiamo di affermare la nostra modernità attraverso l'aderire un po' frettolosamente, un po' troppo rapidamente alle mode, ai costumi, alle cose che ci fanno sentire cosmopoliti e moderni. È una specie di complesso di inferiorità che abbiamo, no? Non vogliamo sentirci provinciali. Per esempio l'Italia è uno dei paesi in cui la pubblicità, comunque, che uno dica che piaccia o non piaccia, alla fine incide sul successo, insomma, dell'acquisto molto più che in tanti altri paesi con cui ci confrontiamo. Ma quanto è strategica per le aziende la politica dei prezzi e quali sono i criteri guida? Lo abbiamo chiesto a Fabio Ancarani, coordinatore del corso Pricing della SDA Bocconi. La politica dei prezzi per le aziende è altamente strategica per una duplice ragione: il prezzo impatta direttamente sui risultati economico-finanziari delle aziende e impatta spesso in modo più che proporzionale rispetto alla sua variazione, e successivamente è importante ovviamente dal punto di vista sia competitivo che di percezione di valore dei clienti, perché l'impatto immediato sia sulle percezioni del brand sia sulle percezioni dell'offerta dell'azienda e dei suoi concorrenti. Generalmente tre sono i parametri che vengono più tipicamente utilizzati: quello che fa riferimento ai costi e quindi la parte più interna delle politiche di pricing, il criterio relativo alla concorrenza, che ovviamente guarda a qual è il pricing dei concorrenti all'interno dell'area marketing, e siamo molto più attenti ovviamente al terzo parametro, che è il parametro del valore percepito dal cliente, perché sono le politiche di pricing e le politiche di marketing congiuntamente che portano il valore reale vicino a quello percepito e sostengono le politiche di pricing stesso. Proprio per quello che abbiamo appena detto, entrano poi in gioco dinamiche particolari, anche complesse. Ad esempio, su un prodotto non sempre ridurre il prezzo serve a vendere di più. Abbiamo avuto proprio una riprova evidente negli ultimi mesi, i passati mesi di crisi. Molte aziende hanno tentato di espandere i volumi ricorrendo molto spesso alla leva prezzo, ma essendo la domanda rigida, soprattutto in situazioni di crisi, non c'è stata l'espansione di volumi che alcune aziende si aspettavano, e questo si è tradotto paradossalmente in una riduzione dei margini. Quindi non sempre l'utilizzo della leva prezzo da solo aiuta ad espandere i volumi. Prezzo e valore vanno sempre assieme, quindi sia il prezzo sia il valore della proposizione di offerta per il mercato. Nei supermercati la politica dei prezzi deve fare i conti con la corsa all'ultimo sconto, ma una delle risorse su cui investire è l'informazione, ci dice il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Nella grande distribuzione c'è un eccesso di promozioni che disaffeziona il cliente e crea milioni di consumatori buyer professionisti alla ricerca dell'ultimo sconto da far valere nella spesa. Con il 24% di pressione promozionale perdono un po' tutti, industria e grande distribuzione, perché il prezzo non è più giudicato trasparente e i margini diminuiscono paurosamente. L'industria ha meno risorse per fare innovazione e la grande distribuzione meno investimenti per avvicinarsi sempre più ai bisogni dei consumatori. Una delle risorse sulle quali tutti stanno investendo di più è invece l'informazione, grande e piccola. Layout semplificati, meno cartelli nei negozi, etichette dei prodotti più esaustive, volantini da educational come quelli davvero belli di Esselunga degli ultimi mesi, dedicati a una categoria merceologica per volta. Coop ha lanciato recentemente un sito internet intitolato Bimbi e alimentazione. Evidentemente vuole diventare leader nell'informazione per l'alimentazione e avviare una campagna anti-obesità, perché oltre a informazioni spicce, giochi e indovinelli, il cuore del sito si dedica all'analisi di come il bambino mangia e vive. Potremmo riassumere questo tentativo di COP come un invito a consumare di meno e meglio, stando attenti alla filiera dei prodotti che le famiglie acquistano, alle materie prime implicate, ma anche uno stile di vita davvero diverso che deve avere nell'attività fisica un lifestyle non solo di facciata. Essere e avere. Secondo la mappa il percorso passa di qua, ma io conosco una scorciatoia. Dovete solo pensare, sì, che andrà tutto bene. Era 127 ore, il film di Danny Boyle, 6 nomination agli Oscar 2011, che racconta la storia vera di Aaron Ralston, l'alpinista americano rimasto intrappolato 5 giorni in condizioni estreme sulle montagne dello Utah. Lo abbiamo scelto per introdurre il focus sui trend di oggi, consumi al limite. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dalle piattaforme panoramiche a quelle sospese per cenare nel vuoto, dagli sport estremi a quelli urbani ad alto tasso di adrenalina, dalla moda scomoda e il design oversize fino agli esperimenti di guerriglia marketing e retail cosiddetto esperienziale, che puntano tutto sul coinvolgimento emotivo dei consumatori. Consumi al limite, appunto, Patrizia. Sì, il tema del limite e del suo superamento naturalmente ha a che fare in termini psicosociali con l'onnipotenza, oltre che con la ricerca di eccitazione e di emozioni forti. Le sfide del possibile stanno anche nel mondo dei consumi tra l'esibizionismo e la ricerca di senso. Il limite come scomodità, dicevi, quindi come soglia oltre la quale la funzionalità di oggetti e prodotti cambia di segno e diventa quasi ostacolo all'uso. Sembra, per esempio, poi non lo è così tanto, uno strumento da tortura medievale lo sgabello di EOS Mexico Studio, la cui seduta ricorda i contenitori delle uova. E poi il progetto The Slightly Uncomfortable Chair Collection, la linea di sedie anti-ergonomiche elaborato dalla Sidley Collective di Montreal e di Amsterdam, per rendere queste sedie, diciamo, influenti sulle situazioni in cui vengono usate, quindi riunioni più veloci ed efficienti, per esempio, grazie al loro non comfort. Un concetto questo della scomodità ampiamente interpretato dalla moda, con abiti, accessori, calzature, soprattutto femminili, ma anche gioielli, che in molti casi sfidano l'indossabilità per le forme antianatomiche o fuori scala, volumi impaccianti, i pesi, per esempio, e gli stessi materiali, che peraltro non vanno quasi mai oltre la passerella o le tirature limitate. Creazioni di forme scultoree anche per tourdeforce.com è il sito. La stilista e la gibilteriana Camille Romain ha creato degli stivali con tacco zeppato, che sono una sezione di se stessi. Non esiste cioè la parte anteriore della gamba e del collo del piede, sono coperte solo le dita e sono da portare di fatto come una pesante ciabatta, poiché ad ogni passo il tallone si stacca, il piede esce e si trascina tutto il peso dello stivale, con un effetto parrebbe di scomodità che sconfina anche in questo caso nella tortura. Molte le esperienze ad alto tasso di scomodità anche nel turismo, nel settore wellness, dalle spa iper privative alle vacanze iper spartane, dove appunto il piacere e la soddisfazione stanno proprio nella sottrazione estrema di ogni comfort a un passo dal masochismo. E c'è un altro elemento specifico interessante legato al no limit ed è il vuoto. Camminare nel vuoto è una domanda alla quale l'architettura sta dando molte risposte con le molte passerelle nel nulla, per esempio. Quella di Garmisch-Partenkirchen nelle Alpi Bavaresi in Germania è la Alpix Platform. Sono 25 metri su un precipizio di 1000 metri. E poi in Arizona zona ne sporgi una sul Grand Canyon, vertiginosa a forma di ferro di cavallo, e poi Buri Dubai, la terrazza panoramica più alta del mondo, ma anche rientrano in questo concetto le piscine a sfioro in cima alle torri del resort Marina Bay Sands a Singapore, e poi a Chicago al piano 103 della Sears Tower, un cubo di cristallo aggettante, trasparente, compreso il pavimento, a 412 metri da terra, che fa da belvedere sulla città. Sempre legati al vuoto e al volo, in questo caso al limite dell'incolumità fisica di chi li pratica, sport urbani estremi noti come il parkour, cioè l'attraversamento acrobatico delle città lungo tracciati con ostacoli naturali, case, strade, eccetera, e i meno noti, booking, il salto cioè con capriola fino a 2 metri di altezza con speciali scarpe trampolo a molla, si chiamano jumper, pesano 7 kg, costano circa 300 euro, con cui si corre anche fino a 30 km orari, ci sono anche nella versione per bambini, e pogo stick, una sorta di pistone su cui appoggiare i due piedi uniti, nuovo strumento del divertimento che ha generato intorno a sé una vera e propria community crescente di seguaci praticanti. Negli eventi sfida, come il torneo californiano Pogo Palusa, vince il pogoista che fa meno salti al minuto, quindi questa voglia di leggerezza antigravitazionale. E si spingono al limite del rappresentabile in TV molte delle serie di successo di questi ultimi tempi, dal serial killer Dexter agli impresari funebri di Six Feet Under, dal protagonista sesso dipendente di Californication al traffico illegale d'armi di Sons of Anarchy, fino al controverso ma pluripremiato Misfits, letteralmente disadattati, storia di ragazzi condannati ai servizi sociali, supereroi, antieroi. Dicono che spacciavi crack. Cosa? Io non spacciavo crack. No, i giornali parlavano di steroidi. Hanno scritto un mucchio di stronzate. Sì, e allora cos'era? Sono stato beccato con della coca. Non fai servizio sociale per possesso di droga. Se fossi stato un altro, avrei preso una multa. A me hanno dato 200 ore di servizio sociale e una squalifica di 2 anni. Ci ucciderà tutti! Merda! Bella entrata, molto drammatica. L'assistente sociale ha strippato, mi ha messo le mani addosso. Sta succedendo qualcosa di strano. Sento delle voci nella testa, riesco a sentire che pensa la gente. Hai sniffato la colla? Il fulmine, il temporale, non lo so, devono averci fatto qualcosa. Anche a me è successo qualcosa. Prima, quando eravamo nello spogliatoio, ero invisibile. Patrizia, scomodità, vertigini, un'altra delle parole chiave di questa tendenza è adrenalina. Assolutamente, per esempio si chiama Adrenalina lo store di articoli sportivi che nei 2 punti vendita a Miami e Orlando in Florida ha inserito Flow Rider, un simulatore di onde per surfisti utilizzato tra l'altro anche negli acquapark e incapsulato in un cubo di vetro all'interno dello store. Sia principianti che esperti possono provare i prodotti sulle onde artificiali a pochi passi dalla cassa, e questa è una formula di try before you buy, come dice il nome, adrenalinico, con alte probabilità di conseguente acquisto. È obiettivo del progetto Nokia Barton. Barton è un marchio leader nel settore tavole e indumenti da snowboard. Siamo sempre in ambito sport estremi. Obiettivo, dicevo, il miglioramento continuo dell'esperienza sportiva. Spostare il limite. Il progetto si chiama Push e consente di registrare i movimenti, i tempi e la velocità di discesa e salti grazie a dei sensori GPS innestati nella tavola e nell'abbigliamento. Scaricarli su computer e con un'applicazione elaborare questi dati con grafici, statistiche delle performance, in modo da averne un tracciato e naturalmente condividerle poi sui social network. Per ora attivo solo in Colorado il servizio River Runners, che ogni domenica offre adventure dates, appuntamenti avventurosi, incontri tra sconosciuti su un gommone durante un rafting lungo il Browns Canyon. L'idea del servizio nasce da ricerche che pare dimostrino come le situazioni altamente stressanti provochino degli scompensi ormonali tali da favorire un immediato legame, nonché attrazione fisica tra chi condivide una stessa esperienza molto adrenalinica. Con chat roulette, se ci pensiamo, si chatta a caso pescando sconosciuti connessi, qui la situazione è del tutto diversa, ma il brivido dell'imprevedibilità e del caso è esattamente lo stesso. Non è dato sapere, tra l'altro, a quali altri espedienti e quanto estremi ricorrere se il primo appuntamento va a buon fine per quelli successivi. Ed è elemento costitutivo anche di qualsiasi campagna di marketing non convenzionale andare oltre la pensabilità, le aspettative e i limiti. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo in Francia su consumi al limite e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Un'avventura nella quale farete fatica a distinguere la realtà dalla finzione è quello che promette l'agenzia Ultime Realité, l'ultima realtà. Questa particolare agenzia offre un servizio che prevede la messa in scena e il coinvolgimento dei clienti in situazioni ad alto tasso di adrenalina, tra cui, e pare sia la più richiesta, la simulazione del proprio rapimento. Come funziona? Dopo averlo concordato, il finto rapimento può avvenire nel giro di pochi giorni o mesi, quindi inaspettatamente, e in qualunque momento della giornata. All'uscita del supermercato o a casa in piena notte, la vittima predestinata verrà incappucciata, legata e trattenuta per un periodo di tempo che va dalle 4 alle 10 ore, ora in cui un team di persone perfettamente calate nella parte e istruite a dovere indurrà al malcapitato momenti di vero panico. Il pacchetto base, diciamo così, costa €900, ma l'esperienza è altamente personalizzabile e ritagliabile ad hoc sulle personali paure e fobie da esorcizzare. Si può infatti condire a piacimento con elementi più o meno sfidanti, come la richiesta di riscatto, la fuga o l'inseguimento in elicottero. A detta del giovane Georges Sexu, fondatore dell'agenzia, a scegliere i suoi servizi sono principalmente persone con ruoli lavorativi nel top management che vogliono mettere alla prova e superare i propri limiti fisici e psichici e imparare in questo modo a fronteggiare le situazioni di stress. Grazie Alessia. Patrizia, anche questo esempio lo testimonia quanto in là ci si può spingere ancora, e soprattutto qual è poi il ritorno di queste formule dal punto di vista dei risultati sui consumatori. Due risposte che sono anche le due questioni critiche del marketing non convenzionale a queste due domande. La prima è quanto ci si può spingere oltre, visto che ci si è via via tutti assuefatti ad ogni tipo di esperienza pensata e predisposta, provocazione, stupore, sorpresa, indignazione o divertimento che sia. La seconda, correlata alla prima, è una nuova domanda che ci si pone come clienti consumatori così continuamente sollecitati nei sensi e nelle emozioni. La domanda è perché, ma anche e adesso e quindi, che rivolgiamo ai brand che ci hanno coinvolti magari pesantemente in un evento esperienziale destabilizzante o che ci hanno esposti a immagini shock al limite della rappresentabilità, e poi tutto, diciamo così, si esaurisce nel consumo. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.